Vuoi un lavoro dinamico, flessibile, divertente, ecologico, grazie al quale puoi fare anche sport, percepire un compenso e avere il tempo di gestire i tuoi altri progetti personali? Beh, potrebbe essere questo il claim dell'operazione di marketing di Foodora e di altre realtà della cosiddetta gig economy, la nuova frontiera del mercato del lavoro che ai diritti e al posto fisso pone il lavoro on demand, come se il lavoratore fosse un canale televisivo. Se si solleva il velo del marketing, però, si scoprono meccanismi che, insomma, di innovativo, di moderno hanno davvero poco: lavoro a cottimo, paghe bassissime e ostracismo verso i lavoratori sindacalizzati, con la novità, questa sì, della spersonalizzazione del rapporto tra dipendente e datore di lavoro, dal momento che a dare gli ordini in tutti i sensi è l'algoritmo di una app. Lo sciopero dello scorso weekend dei riders torinesi di Foodora, piattaforma per le consegne a domicilio nata nel 2014 a Monaco di Baviera ed esportata anche in Italia, ci racconta delle nuove vie dello sfruttamento, con paghe da appunto 2,7 euro a consegna, quindi a cottimo come dicevamo, e migliaia di chilometri percorsi per arrivare in bicicletta, appunto per arrivare a uno stipendio da 600 euro. E pensate che l'azienda ha risposto a questa protesta dicendo che Foodora non è un lavoro per sbarcare il lunario, ma un'opportunità per chi ama andare in bici e mantenere la linea. Mantenere la linea. E addirittura questo ha sorpreso lo stesso ministro del lavoro, Giuliano Poletti, che insomma ha detto che si dice appunto sorpreso da questa risposta e che il problema che abbiamo rispetto alle nuove tecnologie però non ci deve dividere tra chi tra l'innovazione, insomma, non ci deve dividere tra chi è favorevole e chi è contrario. A rispondere a Poletti è stata Marta Fana, giornalista e dottoranda in economia, che come ogni giovedì abbiamo al telefono. Buongiorno Marta. Buongiorno a voi. Ecco, cosa hai risposto a Poletti? Ma io ho voluto dire a Poletti che insomma la condizione, il problema dei, no, dei fattorini, non riders, ma fattorini, perché quello sono di Foodora, alla fine è lo stesso di quanti ragazzi entrano sul mercato del lavoro attraverso i voucher e ci rimangono per anni, ma alla fine è lo stesso anche di quelli che loro chiamano cervelli in fuga, che poi vanno a vivere di mancia in un pub sotto la City di Londra. È la stessa cosa che stesso problema che vivono le operatrici degli asili nido esternalizzati che lavorano per le cooperative a salari di fame. Quindi diciamo che tutto un problema che in realtà non cade dal cielo, non è così un incidente di percorso, però nella realtà dei fatti risponde francamente tutta quella che è la politica sul lavoro degli ultimi 30 anni e che col Jobs Act ha raggiunto in qualche modo il suo apice. Tu scrivi appunto che è stato sostanzialmente macellato il mercato del lavoro. Sì, perché non soltanto abbiamo avuto una flessibilizzazione abbastanza cruda e radicale, ma dall'altro lato è proprio passato attraverso appunto da l'istituzione dei Co-co-co, Co-co-pro, tutte le forme parasubordinate, quello che ricordavi tu, cioè in realtà la parasubordinazione e quindi in qualche modo questa sconnessione nel rapporto di dipendenza e subordinazione tra il lavoratore e l'azienda, formalmente che è soltanto un abbattimento dei costi del lavoro per l'azienda, ma significa meno diritti per i lavoratori, ma che è tutta fittizia, cioè è soltanto uno dei tanti modi per estrarre in qualche modo valore, quindi come si dice una volta, plus valore dalla forza lavoro. In questo caso, come dire, mascherato dalla tecnologia, dal 2.0, però come dicevamo i meccanismi sono i soliti, no? Sono sempre i soliti e secondo me ci sono molti punti in comune. Allora, innanzitutto, proprio parlando di Foodora, parliamo quindi del lavoro in Foodora, parliamo proprio di logistica, sono consegne. La cosa però più grave è proprio in qualche modo l'essenza della gig economy, quindi quello che appunto ripetiamo, la questione è che questo lavoro è proprio on demand, è on demand il consumo e diventa on demand anche il lavoro. Dall'altro lato non c'è più una base salariale di partenza, come invece magari lo è ancora, almeno in parte, per la logistica, se pensiamo ai grandi gruppi come il caso Piacenza, eccetera, ma si ritorna palesemente al cottimo. E questo in realtà per che cosa? Cioè per un'azienda che di fatto è un'app, quindi non ha costi, estrae valore. Dopodiché da questo in qualche modo si arriva anche all'estremizzazione, no? Quello che dicevamo anche l'altro giorno parlando appunto del settore della logistica to cure, è in qualche modo di questo consumo sfrenato perché si protegge sempre di più, il diritto al consumatore gli si strizza l'occhio, no? Con questi grandi pannelli parlando di convenienza, di grandi ristoranti, però dall'altro lato c'è sempre un abbattimento di costo che è quello del lavoro, e quindi in realtà siamo tornati a una forma di sfruttamento in cui non esiste più non soltanto il rapporto salariale in sé, ma non esiste più un tempo di vita, cioè fin tanto che riusciremo a negare l'essenza del lavoro, perché la risposta è dire: se vi piace andare in bicicletta, lavorate per noi, considerando che abbiamo in Italia 3 milioni di disoccupati, quindi sì, hanno del tempo libero, ma sicuramente non è una scelta. Questo in qualche modo, no, stravolge tutto il rapporto di lavoro, l'essenza proprio di cos'è il lavoro che andrebbe pagato, eccetera. E dall'altro lato ricordiamoci appunto che in qualche modo è una corsa al profitto totale, perché se facciamo i conti in realtà quali sono i costi per Foodora? Foodora applica delle commissioni ai ristoranti intorno al 20%, una commissione di 2,90 euro per i consumatori, e per ogni quindi per ogni consegna, invece il costo della consegna è addirittura inferiore che è quello delle consegne per i lavoratori. Questo ci fa dire che loro in qualche modo hanno un profitto che è totale rispetto ai ristoranti, e in più fanno la cresta ai lavoratori. Certo, ecco, io mi soffermerei ora su un punto che hai citato sia oggi che anche la settimana scorsa, che riguarda i consumi. E non c'è il rischio che questa organizzazione del lavoro, come dire, sposti il conflitto tra la classe lavoratrice e i datori di lavoro, e la sposti invece tra i lavoratori e i consumatori, sostanzialmente facendo sembrare i lavoratori come quelli che impediscono che ci sia un servizio adeguato per il consumatore? Il rischio c'è sempre, perché ovviamente, no, dal punto di vista della comunicazione è più facile dire: ah, è colpa loro, come, no, le assemblee sindacali al Colosseo, allora il problema era quello che si bloccavano i turisti, non so, per fare degli esempi noti all'Italia. Però è anche vero che le proteste dei fattorini, quindi in Italia, quindi in questo caso di Torino, ma come è stato anche in Inghilterra con i fattorini Deliveroo, che è il competitor di Foodora, in realtà stanno spingendo, grazie, no, sia alla mobilitazione fisica, quindi che quella online, in qualche modo stanno loro stessi cercando di coinvolgere i consumatori e dire: ehi, guardate che dietro tutto questo c'è sfruttamento, cercate di boicottare questa gente, no, queste aziende. E quindi c'è in qualche modo una scintilla, no, della possibilità di rimettere invece il conflitto vero e proprio, che è quello appunto poi tra capitale e lavoro storico, cioè inutile che facciamo finta che non esiste più, coinvolgendo il consumatore, coinvolgendo sì magari attraverso delle forme nuove che possono essere i social network, eccetera. Però ecco, secondo me in realtà questo è il momento in cui un po' di consapevolezza dal basso si riesce a acquisire. Poi ovviamente c'è tutto il discorso, perché queste mobilitazioni sono spontanee, c'è un'auto-organizzazione, quindi in realtà si bypassa a torto a ragione quella che è invece l'altra vulgata antisindacale, perché in realtà, no, noi abbiamo il consumatore si ribella molto di più quando, no, ci sono i sindacati, sono sempre loro che frenano l'innovazione. No, l'innovazione non è frenata ai sindacati, l'innovazione è frenata dal Cottimo nel 2016, quindi in qualche modo questo processo crea empatia, ma poi di fatto nella sostanza ci riporta alla natura della questione, che è appunto un conflitto in cui c'è uno sfruttamento da un lato con estrazione di valore, che ne va ovviamente anche sul consumo. E questo è molto importante, perché lo diciamo l'altra volta, rispetto alla solidarietà tra un consumatore che è sempre più impoverito poi di fatto nella maggioranza dei casi, è il fattorino che bussa alla porta, che di fatto fa parte dello stesso gruppo sociale, la stessa classe, si sarebbe detto una volta.